tutto a posto e fuori posto come a casa mia. Pronto soccorso, vedo rosso come se vai via. È tutto a posto, è una risposta che sa di bugia. Tra scatti di follia, ma cosa vuoi che sia se tutto cade? Se siamo foglie al vento a fine estate. Ma cosa vuoi che sia se tutto tace? È una guerra di silenzi e nella guerra trovo pace. Amerai tutto di me se non avrò niente di me. Se sarò tale quale a te, come vorresti che sia? Odierò tutto di te se penserai solo per te. Se cercherai un altro me, come vorresti che sia? Fa male che di me non vuoi più saperne. Dimmi ti diverte vedermi inerme. Ed eri disperata perché ero assente. Ora lo so anch'io come ci si sente. E tutto quel dolore mi è tornato indietro. Cammino a piedi nudi sulle schegge di vetro. Ora che grido e tu non puoi sentirmi, non puoi capirmi se me lo merito. Ma cosa vuoi che sia se tutto cade? Se siamo foglie al vento a fine estate. Ma cosa vuoi che sia se tutto tace? È una guerra di silenzi e nella guerra trovo pace. Amerai tutto di me se non avrò niente di me. Se sarò tale quale a te, come vorresti che sia?